Capitolo 6. Mr. Bertram partì e Miss Crawford si aspettava di sentirne molto la mancanza e di provare un grande vuoto. Nel corso degli incontri fra le due famiglie divenuti ormai quasi quotidiani e quando pochi giorni dopo la sua partenza pranzarono tutti insieme al park e lei rioccupò il suo posto consueto al lato della tavola, era preparata a riscontrare un'assai triste differenza dovuta alla sostituzione del provvisorio padrone di casa. Certamente sarebbe stata una serata piatta, ne era sicura. Paragonato con il fratello, Edmund avrebbe parlato poco o niente. La minestra sarebbe stata servita in un'atmosfera priva di vivacità, il vino bevuto senza sorrisi, senza piacevoli frivole osservazioni, la cacciagione scalcata senza offrire lo spunto a qualche spiritoso aneddoto a proposito di quel famoso cosciotto servito in non so che convito precedente o a una divertente storia sul mio amico tal dei tali. E a lei sarebbe rimasto solo da cercare svago in quanto si svolgeva all'altro capo della tavola e nell'osservare Mr. Rushworth, che in quella circostanza faceva la sua prima comparsa a Mansfield da quando i Crawford vi erano giunti. Era stato ospite di un amico in una contea vicina e poiché questi aveva fatto sistemare il parco intorno alla sua casa da un artista giardiniere di grido, Mr. Rushworth era ritornato con la testa piena della cosa ed ora aspirava a migliorare la propria tenuta seguendo lo stesso criterio. E benché non avesse da dire nulla di concreto e di personale in proposito, non sapeva parlare d'altro. L'argomento, già discusso in salotto, venne ora ripreso in sala da pranzo. Fissare l'attenzione di Miss Bertram e ottenerne il parere era evidentemente lo scopo principale del giovane, e benché l'atteggiamento di lei fosse ispirato più a conscia superiorità che al desiderio di compiacerlo, il sentir menzionare Southerton Court con tutte le implicazioni contenute in quel nome le procurava una soddisfazione che le impediva di essere apertamente scostante. «Vorrei che potesse vedere Compton», le diceva lui, «è una cosa perfetta. In vita mia non ho mai visto nulla di così trasformato. Ho detto a Smith che, guardandovi in giro, non capivo più dove mi trovassi. Il viale d'accesso ora è una delle più belle cose che si possano vedere nel paese. La casa si presenta allo sguardo nel modo più sorprendente. Davvero, quando ieri sono tornato a Southerton, mi è sembrata tetra come una prigione». «Oh, vergogna a dire una simile cosa!» esclamò Mrs. Norris. «Una prigione, davvero? Southerton è la più nobile tenuta gentilizia che ci sia al mondo. Più di qualsiasi altra, signora, necessita di miglioramenti. In vita mia non ho mai visto un luogo che abbia una maggiore necessità di essere sistemato ed è stato così trascurato che non so cosa se ne potrà fare». «Non fa meraviglia che Mr. Rushworth oggi la pensi così», disse con un sorriso Mrs. Grant a Mrs. Norris, «ma può star certa che fra un po' di tempo Southerton avrà tutti i miglioramenti che gli stanno a cuore». «Devo tentare di farne qualcosa», continuava intanto Mr. Rushworth. «Ma che cosa? Non lo so. Spero che avrò l'aiuto di qualche buon amico che mi consigli». «Oh, in questa congiuntura direi che Mr. Repton sarebbe il suo miglior amico», disse Miss Bertram. «Pensavo proprio a lui. Visto che da Smith ha fatto un così buon lavoro, credo che farei bene a impegnarlo subito. Le sue competenze sono di 5 guinee al giorno». «Ebbene, anche se fossero 10», esclamò Mrs. Norris, «sono certa che per lei non farebbe alcuna differenza. Non si deve badare alla spesa. Se fossi in lei, non mi preoccuperei della spesa. Farei eseguire ogni cosa nello stile migliore. Vorrei tutto quanto vi è di più bello. Una tenuta quale Southerton Court merita tutto quello che il denaro e il buon gusto possono fare. Là lei ha spazio da lavorarci su e terreni che la compenseranno ampiamente. Per parte mia, se avessi una proprietà grande la 50ª parte di Southerton, passerei il mio tempo a metter piante a dimora e a migliorare l'assetto dei giardini, poiché questa attività mi appassiona naturalmente. Però sarebbe veramente ridicolo se tentassi di far qualcosa del genere là dove abito ora col mio mezzo acro di terreno. Sarebbe proprio comodo. Ma se avessi più spazio, proverei un piacere straordinario a piantare e sistemare. Da questo punto di vista abbiamo fatto moltissimo alla canonica. L'abbiamo trasformata completamente da com'era al nostro arrivo. Voi altri ragazzi forse Non ve ne ricordate bene, ma se il caro Sir Thomas fosse qui, potrebbe dirvi quali migliorie vi abbiamo apportato. E avremmo fatto molto di più se non fosse stato per la salute cagionevole del povero Mr. Norris. Quasi non poteva più uscire, povero uomo, e questo mi scoraggiò dall'intraprendere una quantità di cose di cui Sir Thomas ed io eravamo soliti parlare. Se non fosse stato per questo, avremmo prolungato il muro del giardino e piantato degli alberi in modo da schermare la vista del cimitero, proprio come ha fatto il dottor Grant. Ma anche così facevamo continuamente qualcosa. È stato proprio un anno prima della morte di Mr. Norris, in primavera, che abbiamo messo a dimora contro il muro della scuderia quell'albicocco che oggi è diventato un così nobile albero e ha raggiunto la perfezione che lei ben sa, disse rivolgendosi al dottor Grant. Oh, che l'albero prosperi è fuori dubbio, signora, replicò il dottor Grant. La terra è buona. Non gli passo mai davanti senza rammaricarmi che i frutti non meritino la fatica di coglierli. Signore, quell'albero è di una qualità pregiata, è un Moor Park. Lo abbiamo comprato come tale e ci è costato, cioè è costato a Sir Thomas, perché è stato un regalo di Sir Thomas, ma io ho visto la fattura e so che è costato 7 scellini e che è stato fatto pagare al prezzo di un Moor Park. L'hanno imbrogliata, signora, rispose il dottor Grant. Queste patate hanno il sapore di un'albicocca Moor Park tanto quanto i frutti di quell'albero. L'albicocca è già un frutto insipido di per sé, nel migliore dei casi, ma mentre una buona albicocca è mangiabile, nessuna di quelle del mio giardino lo è. La verità è, signora, disse Mrs. Grant, facendo le viste di sussurrare a Mrs. Norris, che sedeva dall'altra parte del tavolo, che il dottor Grant quasi non sa quale sia il sapore genuino delle nostre albicocche. Ben raramente ne ha potuta assaggiare una, poiché è un frutto talmente pregevole, se lo si aiuta un po', e le nostre sono così grosse che, fra crostate di frutta primaticcia e marmellate, la nostra cuoca si aggiusta per farne esclusivo uso lei. Mrs. Norris, il cui volto aveva cominciato a farsi rosso dalla collera, fu temporaneamente pacificata da quella precisazione e per un po' non si parlò delle migliorie da apportare a Southerton. Mrs. Norris e il dottor Grant non andavano molto d'accordo. La prima presa di contatto era avvenuta quando si era trattato di stabilire l'importo del risarcimento dovuto ai nuovi occupanti della canonica per certe necessarie riparazioni. Inoltre i due erano totalmente diversi per gusti e abitudini. Mr. Rushworth, dopo una breve parentesi, riattaccò. La tenuta di Smith ora costituisce l'ammirazione di tutta la regione, eppure prima che Repton la prendesse in mano non era niente, assolutamente niente. Penso proprio che chiamerò Repton. Mr. Rushworth, disse Lady Bertram, se io fossi in lei, vorrei avere una bella macchia di arbusti. Fa piacere, quando fa bel tempo, uscire e andarsi a sedere all'ombra di una macchia di arbusti. Mr. Rushworth si affrettò a assicurare sua signoria di essere pienamente d'accordo e tentò di mettere insieme una frase amabile e ossequiosa, ma poiché, oltre a promettere di conformarsi ai dilei gusti e a dichiarare che personalmente gli aveva sempre avuto quella stessa intenzione di fare quanto lei suggeriva, volle anche professarsi dedito a garantire il benessere delle signore in generale. E implicando però che ne esisteva una sola al mondo che egli era ansioso di compiacere, finì con l'impappinarsi ed Edmund fu lieto di venirgli in aiuto, interrompendone il discorso con l'offrire del vino ai commensali. Tuttavia, Mr. Rushworth, benché di solito non fosse un gran parlatore, aveva ancora qualcosa da dire sull'argomento che gli stava a cuore. La tenuta di Smith non oltrepassa di molto i 100 acri complessivamente, il che è abbastanza poco, e ciò rende ancora più sorprendente che abbia potuto essere così straordinariamente migliorata. Ora a Southerton abbiamo un buon 700 acri, senza contare i prati irrigui, così penso che se sia potuto fare tanto a Compton, non dobbiamo disperare di ottenere un buon risultato anche da noi. Sono già stati abbattuti 2 o 3 grossi vecchi alberi, perché crescevano troppo vicino alla casa, e questo allarga la prospettiva in modo sorprendente. Il che mi fa pensare che Repton, o chiunque altro del ramo, farebbe certamente abbattere gli alberi del viale lì a Southerton. E rivolgendosi in particolare a Miss Bertram, sa, il viale che dall'ala ovest porta in cima alla collina. Ma Miss Bertram pensò bene di rispondere, il viale? Oh, non lo ricordo, in realtà conosco solo pochissimo di Southerton. Fanny, che sedeva alla sinistra di Edmund, proprio di fronte a Miss Crawford, e che aveva ascoltato attentamente, gli gettò un'occhiata e disse a bassa voce: «Tagliare gli alberi di un viale, che peccato! Non ti ricorda i versi di Cooper? O voi viali abbattuti, una volta di più lamento il vostro immeritato destino». Edmund sorrise e rispose: «Temo che quel viale abbia poche probabilità di salvarsi, Fanny. Mi piacerebbe vedere Sotherton prima che gli alberi vengano abbattuti, vedere il sito quale è oggi nel suo aspetto antico, ma non credo mi sarà possibile. Non ci sei mai stata? Ah no, è vero, e sfortunatamente è troppo lontano perché tu ci vada a cavallo. Vorrei che trovassimo il modo». «Oh, non fa nulla. Quando lo vedrò tu mi dirai come e dove è cambiato». «Credo di capire», disse Miss Crawford, «che Sotherton è una vecchia tenuta, una tenuta di una certa grandiosità. La casa è costruita in uno stile architettonico d'epoca?» «La casa è stata costruita ai tempi della regina Elisabetta ed è un grande edificio regolare in mattoni, pesante ma di aspetto rispettabile ed ha molte buone stanze. È situata in cattiva posizione. Sorge nella parte più bassa del parco e da questo punto di vista si presta male ad essere messa in valore, ma i boschi sono bellissimi e vi è un corso d'acqua che, ne sono certo, può venire sfruttato ottimamente. Mr. Rushworth ha senz'altro ragione, penso, nel voler dare un tocco moderno al paesaggio e sono certo che ogni cosa sarà fatta con la massima proprietà». Miss Crawford, che lo aveva ascoltato con compunta attenzione, pensò: «Ha ricevuto un'ottima educazione e la sfrutta nel migliore dei modi». «Non voglio influenzare Mr. Rushworth», continuò lui, «ma se avessi una proprietà da rinnovare, non mi affiderei a un esperto, preferirei ottenere un grado inferiore di bellezza, ma di mia scelta, e raggiunta progressivamente. Ai suoi preferirei i miei propri errori». «Oh, lei saprebbe dove mettere le mani, naturalmente, ma questa attività non fa per me. Non ho né occhio né ingegno per cose di questo genere, a meno che non me lo trovi davanti. E se possedessi una tenuta in campagna sarei gratissima a un qualsiasi Mr. Repton che si occupasse di sistemarle e mi desse quanta più bellezza possibile in cambio del mio denaro, e non andrei mai a vedere i lavori finché tutto non fosse completato». «Oh, per me sarebbe bellissimo seguirne lo sviluppo», disse Fanny. «Certo, lei è stata educata per queste cose, ma non hanno fatto parte della mia educazione, e l'unica lezione che me ne è stata data, venendo impartita da quello che certo nell'essere più caro che ho al mondo, mi ha indotta a considerare le migliorie in corso di attuazione come la peggiore delle molestie. 3 anni fa l'ammiraglio mio onorato zio comperò un rustico a Twickenham affinché vi passassimo l'estate tutti insieme. E la zia ed io partimmo, a quella volta, assolutamente in estasi, ma poiché era davvero un luogo incantevole, ben presto fu sentita la necessità di migliorarlo. E durante 3 mesi tutto fu terra smossa e confusione, senza un sentiero di ghiaia su cui posare i piedi o una panchina su cui ci si potesse sedere. No, no, no. No, in campagna vorrei avere ogni cosa sistemata di punto, macchie di cespugli, aiuole fiorite e una quantità di sedili, innumeri, ma tutto deve essere fatto senza richiedere il mio intervento. Harry è diverso, a lui piace fare le cose di persona». A Edmund spiacque udire Miss Crawford, che era tanto disposta ad ammirare, parlare con tanta libertà dello zio. Contrastava col suo senso del decoro e rimase in silenzio finché altri sorrisi e frasi briose non lo indussero a dimenticare la cosa. «Mister Bertram», gli disse lei, «ho finalmente avuto notizie della mia arpa. Mi assicurano che è giunta sana e salva a Northampton e vi si trova probabilmente già da 10 giorni a dispetto delle solenni assicurazioni in contrario che ci hanno dato ripetutamente». Edmund espresse la sua gioia e la sua sorpresa. «Il fatto è che abbiamo richiesto le informazioni troppo direttamente. Abbiamo mandato un domestico, poi siamo andati di persona, ma non è il giusto metodo da seguire a 70 miglia da Londra. Stamane la notizia ci è giunta nel modo giusto. È stata vista da un certo fattore che lo ha detto al mugnaio e il mugnaio lo ha detto al macellaio e il genero del macellaio ne ha fatto parola nella bottega del nostro villaggio. Sono lietissimo che ne abbia avuto notizia, qualsiasi ne sia il tramite, e spero che ormai non vi saranno ulteriori ritardi. Lavoro domani, ma come pensa che verrà trasportata? Non da un carro o da una carretta? Oh, non si è potuto tenere in affitto niente del genere nel villaggio, tanto valeva che chiedessi dei facchini o una carriola. Ma credo che troverà difficilmente da affittare un cavallo e una carretta in piena stagione di raccolta del fieno, che oltre a tutto si fa in ritardo quest'anno. Sono rimasta stupefatta nel vedere che problema complicato ne è sorto. Ottenere un cavallo e una carretta in campagna è sembrato impossibile, perciò ho detto alla mia cameriera di cercarmi immediatamente un mezzo di trasporto qualsiasi. E siccome non posso affacciarmi alla finestra del mio spogliatoio senza vedere l'aia di una fattoria, né uscire a passeggiare nella macchia senza passare davanti a un altro cortile rustico, pensavo che ci fosse solo da chiedere per ottenere e sono rimasta assai dispiaciuta, accorgendomi che non era così. Immagini la mia sorpresa quando ho scoperto di aver chiesto la più irragionevole, la più impossibile delle cose, e che facendolo avevo offeso tutti i fattori, tutti i contadini, tutto il fieno della parrocchia. Quanto all'amministratore del dottor Grant, credo che farò bene a non capitargli sotto gli occhi, e mio cognato stesso, che generalmente è tutto cortesia, mi ha rivolto uno sguardo truce quando ha saputo quel che avevo tentato di fare. Beh, certo, non ci si poteva aspettare che lei se ne rendesse conto prima, ma ora che è in grado di considerare meglio le cose, deve capire quanto sia importante mettere a riparo in tempo l'erba falciata. In qualsiasi momento ottenere in affitto carro e cavalli non sarebbe così facile come sembra. I nostri contadini non hanno piacere di affidarli a mani estranee, ma in tempo di raccolto poi non possono assolutamente farne a meno. Ah, col tempo capirò i vostri usi. Ma arrivata qui da Londra, confortata dall'infallibile massima londinese secondo cui qualsiasi cosa si ottiene col denaro, a tutta prima sono rimasta disorientata dall'incrollabile indipendenza degli abitanti di questa vostra contrada. In ogni modo manderò a prendere la mia arpa domani. Harry, che è la compiacenza fatta persona, si è offerto di andarla a prendere lui stesso con la sua carrozza. Non trova che sarà trasportata con tutti gli onori? Edmond disse che l'arpa era il suo strumento musicale preferito ed espresse la speranza di avere presto l'opportunità di ascoltarla suonare. Fanny, da parte sua, disse che non aveva mai udito suonare l'arpa, ma desiderava moltissimo sentirla. Suonerò col massimo piacere per voi due, disse Miss Crawford, almeno finché vi farà piacere ascoltarmi, anzi, probabilmente molto più a lungo perché amo la musica e là dove il gusto naturale di chi suona è uguale a quello di chi ascolta, il primo è favorito poiché nel suonare trova molteplici soddisfazioni. E ora, Mr. Bertram, se scriverà a suo fratello, la prego di dirgli che la mia arpa è arrivata. Ha sentito tanto parlare delle mie preoccupazioni in proposito. E gli dica per favore che preparerò le mie arie più tristi per accoglierlo al suo ritorno e condolermi con lui, visto che sono certa che il suo cavallo perderà le corse. Se gli scriverò, dirò tutto quanto lei desidera, ma al momento non ho nessun motivo per indirizzargli una lettera. No, naturalmente no, e anche se stesse via 12 mesi, né lei gli scriverebbe né lui scriverebbe a lei, per poco che ne poteste fare a meno. L'eventualità non verrebbe presa in considerazione. Che strane creature sono i fratelli. Non scrivereste a meno di non essere spinti da una qualche impellente necessità e quando foste costretti a prendere la penna in mano per annunciare che un qualsiasi cavallo è ammalato o che un qualsiasi parente è morto, lo fareste col minor numero possibile di parole. Voi tutti avete un unico stile, lo so perfettamente. Harry, che da ogni altro punto di vista è esattamente quel che un fratello deve essere e mi vuole bene davvero, mi consulta, si confida con me ed è solito parlarmi per delle ore. Non ho mai avuto bisogno di voltare il foglio di una sua lettera e molto spesso non vi leggo molto di più. Cara Mary, sono appena arrivato. Bath sembra piena di gente, tutto va come al solito, sinceramente tuo. Questo è il vero stile virile, questo è il modello di una lettera fraterna. Quando sono lontani da tutta la famiglia, disse Fanny arrossendo, risentita per amore di William, sanno scrivere lunghe lettere. Oh, Miss Price ha un fratello in marina, disse Edmund, la cui diligenza e assiduità di corrispondente la inducono a pensare che lei sia troppo severa con noi. In marina? Ah, davvero? A servizio del re, naturalmente. A Fanny sarebbe piaciuto che fosse Edmund a spiegare come stavano le cose, ma il volontario mutismo del cugino la costrinse a esporre personalmente la situazione. La sua voce Si animò mentre parlava della professione di William e dei porti stranieri che aveva toccato, ma non seppe accennare ai tanti anni della sua assenza senza che le salissero le lacrime agli occhi. Miss Crawford cortesemente augurò a William una prossima promozione. «Conosce per caso il capitano di mio cugino?» chiese Edmund. «Il capitano Marshall? Lei ha avvicinato molte persone dell'ambiente, no?» «Sì, parecchi ammiragli», rispose Mary. «Ma», aggiunse con ostentata sufficienza, «abbiamo avvicinato pochissimi ufficiali di grado subalterno. Può darsi che i capitani dei postali siano delle bravissime persone, ma non appartengono al nostro giro. Sul conto di alcuni ammiragli potrei dirla lunga. Descrivere loro e le loro navi e la scala progressiva delle loro paghe e le reciproche scaramucce e gelosie, ma globalmente posso dirle che tutti si sentono poco considerati e trattati in modo inferiore ai loro meriti. Naturalmente la casa in cui sono vissuta con mio zio mi ha messa in contatto con tutta la cerchia degli ammiragli. Vi ho incontrato un bel numero di contro e di vice e ora la prego, non pensi che ho voluto fare un gioco di parole». Edmund fece nuovamente il viso grave, si limitò a rispondere: «Quella del marinaio è una nobile professione». «Sì, la professione è abbastanza buona, ma a due condizioni: purché dia modo di accumulare una fortuna e purché si sappia spenderla con discrezione. Ma a farla breve, non è la professione che preferisco. A me non si è mai presentata sotto un aspetto amabile». A questo punto Edmund sviò il discorso e, riconducendolo sull'arpa, si disse felice al pensiero di sentirgliela suonare. Frattanto, l'interesse degli altri commensali continuava a concentrarsi sulle migliorie apportate o da apportarsi nelle varie tenute, tanto che Mrs. Grant fu indotta a richiamare l'attenzione del fratello in proposito, anche se con ciò lo avrebbe distolto dal prestare orecchio a Miss Julia. «E tu, mio caro Henry, non hai nulla da dire in proposito? Tu stesso sei un esperto in fatto di migliorie e Everingham, a quanto ho sentito dire, ora può reggere il confronto con qualsiasi altra nobile tenuta in Inghilterra. Certo, i suoi pregi naturali sono sempre stati grandi. Everingham, quale lo ricordo, secondo me era già perfetto per la felice ubicazione, per gli splendidi alberi. Cosa non darei per vederlo quale ora. Oh, niente mi dà maggior soddisfazione del sentire la sua opinione in proposito», le rispose il fratello, «ma temo che andrà incontro a una delusione, non lo troverà all'altezza di come lo immagina. Dal punto di vista dell'estensione è un semplice nulla. Nel rivederlo a distanza di tempo la sua insignificanza la sorprenderebbe. E quanto alle migliorie apportate, mi hanno dato pochissimo lavoro, troppo poco. Mi sarebbe piaciuto dovermene occupare molto più a lungo». «Le piace questo genere di occupazione?» chiese Giulia. «Immensamente, ma che potevo fare? Fra i vantaggi naturali del sito, che anche a un occhio giovanissimo qual era il mio allora dicevano che restava ben poco da aggiungere, e la risoluzione che presi in conseguenza, non ero maggiorenne da 3 mesi quando Everingham venne trasformato così come oggi. Il mio piano fu ideato quando ero a Westminster, forse modificato un po' quando passai a Cambridge e appena raggiunsi la maggiore età lo misi in esecuzione. Sono propenso a invidiare a Mr. Rushworth tutto il piacere che lo attende. La mia parte l'ho divorata». «Chi ha occhio pronto nel giudicare risolve prontamente e prontamente agisce», disse Giulia. «Lei avrà sempre di che occuparsi, ma invece di invidiare Mr. Rushworth potrebbe venirgli in aiuto con i suoi consigli». Mrs. Grant, udendo la fine di questo discorso, appoggiò caldamente il suggerimento, persuasa com'era che non potevano esservi consigli migliori di quelli di suo fratello. E siccome Miss Bertram afferrò al volo l'idea e le diede il suo beneplacito, dichiarando che secondo lei era assai meglio chiedere il parere degli amici, consiglieri disinteressati, piuttosto che mettere ogni cosa in mano a un professionista del ramo, Mr. Rushworth prontissimamente sollecitò l'aiuto di Mr. Crawford, il quale, dopo aver convenientemente deprezzato le proprie capacità, si mise tutto a sua disposizione, felice di potergli essere utile. Senza perder tempo, Mr. Rushworth chiese a Mr. Crawford di fargli l'onore di recarsi da lui a Sotherton e di accettarvi la sua ospitalità. Ma Mrs. Norris, come se leggesse nel pensiero delle nipoti quanto poco essi apprezzassero un progetto inteso ad allontanare da loro Mr. Crawford, si fece avanti con un emendamento. Non si può mettere in dubbio la perfetta disponibilità di Mr. Crawford, ma perché non dovremmo andare anche noi? Perché non formare una piccola comitiva? Parecchi fra i presenti sarebbero interessati alle migliorie che lei intende apportare, mio caro Mr. Rushworth, e amerebbero sentire lì sul posto le opinioni di Mr. Crawford. Anzi, con le loro opinioni potrebbero tornare utili in qualche modo. Da parte mia è molto che desidero far nuovamente visita alla sua buona madre. Nulla se non la mancanza di cavalli di mia proprietà ha potuto trattenermi così a lungo dal farlo. Così potrei venire a Sotherton e trascorrere qualche ora seduta in compagnia di Mrs. Rushworth, mentre voi altri girereste per la tenuta e decidereste ogni cosa. Poi potremmo tornare tutti quanti insieme per pranzare qui, sul tardi. Oppure potremmo pranzare a Sotherton come meglio piacesse a sua madre e poi fare una bella scarrozzata al chiaro di luna e tornarcene a casa. Penso che Mr. Crawford acconsentirebbe ad accogliere me e le mie due nipoti nella sua carrozza. Edmund potrebbe seguire a cavallo, sorella, e Fanny rimarrebbe a casa con lei. Lady Bertram non fece obiezioni e tutti gli interessati espressero prontamente il proprio assenso, eccetto Edmund, che ascoltò ogni cosa senza dire verbo.